ad alta voce. Enzo Turrin legge Jacob von Gunten di Robert Walser. Traduzione di Emilio Castellani. Quarta puntata. Spesso vado fuori per la strada e lì mi sembra di vivere in una favola che ha del tumultuoso. Quanto spingere di folla, che strepito, che fracasso, quanto gridare, scalpicciare, sussurrare, ronzare, e tutto ammucchiato in un tal groppo. Rasenti alle ruote dei veicoli camminano bimbi, ragazze, uomini, donne ben vestite. Nella folla si scorgono vecchi, storpi, gente con la testa fasciata, e sempre nuove schiere di persone, di vetture. Le carrozze del tram elettrico sembrano scatole piene zeppe di figure. Gli omnibus passano arrancando come grossi goffi scarafaggi. Ci sono poi delle vetture che si direbbero delle torri panoramiche ambulanti. Sui sedili in alto sta seduta gente che passa sopra la testa di tutto ciò che cammina, salta o corre in basso. Nuove folle si aprono un varco tra quelle presenti. Si va, si viene, si appare, si scompare, tutto in un momento. Cavalli scalpitano, meravigliosi cappelli ornati di piume adocchiano da carrozze padronali scoperte che corrono via veloci. L'intera Europa manda qui i suoi esemplari d'umanità. La distinzione cammina a fianco con la bassezza e la cattiveria. La gente va non si sa dove e poi torna indietro, ed è tutt'altra gente, da dove venga non si sa. Uno pensa di poterlo un po' indovinare e si rallegra della fatica che gli costerà il decifrarlo. E al di sopra di ogni cosa risplende il sole. Fa luccicare il naso di uno, la punta dei piedi di un altro. Dagli orli delle gonne fanno capolino, scintillanti e conturbanti, i merletti. Nelle carrozze in grembo a vecchie signore distinte vanno a spasso i cagnolini. Tutt'attorno vi esplodono seni, seni femminili compressi in vesti, in corsetti. E poi sono di nuovo gli stupidi sigari, nelle tante spaccature di bocche maschili. E si immaginano strade impreviste, invisibili nuovi paraggi, ugualmente brulicanti di gente. Tra le 6 e le 8 di sera è il momento in cui il brulichio si fa più grazioso e più fitto. È l'ora della passeggiata della migliore società. Che cosa si è realmente dentro questa fiumana, dentro questa corrente variopinta di uomini che non conosce fine? A volte tutti questi visi in movimento sfumano in un bagliore rossiccio, colorati dai fuochi del sole del tramonto. E quando il cielo è grigio e piove, allora tutte queste figure, e io con loro, camminano veloci, come figure di sogno, sotto la volta scura, in cerca di qualcosa e, si direbbe, senza mai trovar nulla di bello e di giusto. Ciascuno cerca qualcosa qui, ciascuno sogna ricchezze e fortune favolose. Si va in fretta, no? Si dominano. Ma la fretta, il desiderio, il tormento e l'inquietudine risplendono sfavillanti negli occhi cupidi. Poi è di nuovo tutto un immergersi nel caldo sole di mezzogiorno. Tutto sembra addormentato, anche le carrozze, i cavalli, le ruote, i rumori, e la gente guarda come se non capisse. Le case, alte che sembrano crollare, si direbbe che sognino. Ragazze passano rapide, molti portano pacchi. Verrebbe voglia di gettarsi al collo di qualcuno. Arrivo all'istituto e Kraus è lì seduto e mi canzona. Io gli dico che sarebbe ben giusto conoscere un po' il mondo. Conoscere il mondo? Fa lui, come assorto in profondi pensieri, e sorride con aria di disprezzo. Due settimane circa dopo il mio ingresso alla scuola, nei nostri luoghi è apparso Hans. Hans è il vero contadinotto, quello che si trova nelle favole di Grimm. Viene dal cuore del Mecklenburgo e profuma di opulenti prati fioriti, di stalle, di fattorie. magro, squadrato e ossuto, parla una bizzarra e bonaria lingua contadina che mi piace molto ascoltare, purché abbia la precauzione di tapparmi il naso. Non che Hans esali un cattivo odore, e tuttavia c'è chi si tura non so quali nasi sensibili, nasi intellettuali, culturali, spirituali, c'è da giurarlo, e questo del tutto involontariamente, senza che con ciò si voglia per nulla offendere il bravo Hans. E lui non se ne accorge nemmeno. Tanto sano e schietto è il modo di vedere, di sentire, di percepire in questo figlio della campagna. È come se vi venisse incontro la terra stessa, crepe e pieghe della terra, quando ci si assorbe nella contemplazione di questo ragazzo. Ma non è il caso di usare questi termini. Hans non è il tipo da provocare penose meditazioni. Non mi è indifferente niente affatto, ma, come dire, un po' lontano e superficiale. Lo si prende del tutto alla leggera, perché non ha niente che desti sensazioni gravose da sopportarsi. Il contadinotto delle fiabe di Grimm. Un che di ancestralmente tedesco e di piacevole, comprensibile e autentico fin dal primo fuggevole sguardo. Vale senz'altro la pena di essergli un buon compagno. In avvenire Hans lavorerà duro senza mai lagnarsi. Fatiche, preoccupazioni, avversità, si può dire che non lo toccheranno, traboccante com'è di forza e di salute, e per di più non è brutto. A proposito, mi vien quasi da ridere di me stesso. In tutti e in tutto io trovo sempre una briciola di bello. Mi sono tutti così simpatici, i miei condiscepoli, i miei compagni di qui. Sono un cittadino di metropoli nato? È molto probabile. Quasi mai mi lascio frastornare o sorprendere. C'è qualcosa di indicibilmente freddo in me, nonostante le eccitazioni che possono assalirmi. In 6 giorni mi sono belle liberato della provincia. Del resto sono nato in una città piccolissima, ma di rango mondiale. Ho succhiato col latte materno la mentalità e la sensibilità cittadine. Da bambino vedevo operai ubriachi che se ne andavano barcollando e cantando a squarciagola. Fin da piccolo la natura mi è apparsa come qualcosa di celestialmente lontano, perciò posso rinunziare a essa. Si deve rinunziare anche a Dio. Sapere che la bontà, la purezza, l'elevatezza se ne stanno nascoste tra chissà quali nebbie e adorarle e venerarle pian piano, in profondissimo silenzio, con fervore ombroso e ad un tempo assolutamente freddo, a questo sono abituato. Un giorno, da bambino, vidi un operaio italiano che giaceva morto accanto a un muro. Era trafitto da numerose pugnalate e guazzava nel sangue. E un'altra volta, era l'epoca di Ravachol, si diceva tra i giovani che anche da noi presto si sarebbero buttate bombe, eccetera. Vecchi tempi. Ma io volevo parlare di tutt'altro, e precisamente del nostro compagno Peter, detto Pietrone. Questo spilungone di ragazzo è proprio troppo comico. È nativo di Teplitz, in Boemia, e sa parlare sia in slavo che in tedesco. Suo padre fa il poliziotto e Peter, che è stato istruito nel commercio presso una corderia, sembra si sia fatto passare per un ignorante, un disutile e un depravato, idea che in tutta segretezza trovo molto carina. Lui dice che se glielo chiedessero saprebbe parlare anche ungherese e polacco, ma qui non c'è nessuno che gli chieda una cosa simile. Che estese conoscenze linguistiche! Peter è senza alcun dubbio il più sciocco e il più goffo fra noi allievi, e questo, ai miei modesti occhi, lo ricopre e lo inghirlanda di distinzioni, perché a me gli sciocchi sono incredibilmente cari. Mentre quelli che vogliono sapere tutto, che risplendono di scienza e si gonfiano del loro spirito, mi sono odiosi. Niente di più orribile ai miei occhi che gli astuti e i furbacchioni, e sotto questo aspetto Peter è davvero delizioso. Già il fatto che sia così lungo da rompersi in due a metà, è bello. ma più bella ancora è la bonomia che gli dà la permanente sicurezza di essere un uomo di mondo, un nobile e raffinato gaudente. Roba da crepar dal ridere. Non fa che parlare delle avventure che ha vissute, ma che probabilmente sono tutte inventate. Una cosa è vera. Peter possiede il bastone da passeggio più elegante e più grazioso del mondo, e col suo bastone se ne esce sempre a passeggiare per le strade più animate. Un giorno lo incontrai nella Effestrasse. La Effestrasse è il più incantevole epicentro della vita mondana di questa grande città. Già in distanza egli mi salutò con la mano, con cenni del capo e dondolando il suo bastone. Poi, quando gli fui vicino, mi guardò con un fare tra paterno e preoccupato, quasi a voler dire: «Come, anche tu sei qui? Jacob, Jacob, non è ancora un posto per te». E poi si congedò alla maniera di un grande della terra, come se fosse un redattore di giornale mondano preoccupato di non sciupare il suo preziosissimo tempo. E io vidi il suo cappellino rotondo, elegante e stupido, scomparire in mezzo alla folla delle altre teste e degli altri cappelli. Era, come si suol dire, sprofondato nella massa. Peter non impara assolutamente niente, anche se ne avrebbe bisogno a un punto così grottesco. È chiaro che è entrato nell'istituto Beniamenta solo per farvi sfoggio delle sue prelibate stupidaggini. Forse vi diventerà abbondantemente ancora più stupido di quanto non fosse. E perché del resto dovrebbe essere impedito alla sua stupidaggine di espandersi? Io, per esempio, sono convinto che Peter nella vita riporterà un successo addirittura scandaloso, e strano a dirsi, glielo concedo, e vado anche più lontano. Ho la sensazione, una sensazione molto consolante, pungente e piacevole, che in futuro mi toccherà in sorte un padrone, un sovrano e signore come potrà essere Peter, perché gli stupidi del suo tipo sono creati per farsi avanti, per salire, per la vita agiata e per il comando, mentre quelli in certo senso intelligenti, come me, devono lasciare che il buon impulso che è in loro fiorisca e si afflosci al servizio degli altri. Io sarò qualcosa di molto umile, di molto piccolo. Il sentimento che mi assicura di questo ha la natura di un intangibile fatto compiuto. Dio mio, e con tutto ciò ho ancora tanto, tanto coraggio di vivere? Spesso mi faccio un po' paura, ma non per molto tempo. No, no, ho fiducia in me. Ma non è una cosa davvero buffa? Per il mio condiscepolo Fuchs, il mio lessico non ha che un'espressione. Fuchs è obliquo. Fuchs è sbieco. Parla come un capitombolo andato storto. Si comporta come una grossa improbabilità impastata in forme umane. Tutto in lui è antipatico e perciò indegno di considerazione. Sapete qualcosa di Fuchs? È un abuso, una sconveniente e sgradevole superfluità. Tipi di buoni a nulla come lui si conoscono solo per disprezzarli, ma siccome in generale non si desidera trovar niente degno di disprezzo, si dimentica la cosa o non ci si bada. Ecco, una cosa, questo è lui. Oh Dio, devo proprio dire cattiverie oggi? Mi viene voglia di odiarmi per questo. Via, passiamo a qualcosa di meglio. Il signor Beniamenta lo vedo molto di rado. Qualche volta entro nell'ufficio, mi inchino fino a terra, dico «Buongiorno, signor direttore» e chiedo a quella figura di despota se posso uscire. «E il tuo curriculum?» mi sento domandare. «L'hai scritto o non l'hai scritto?» Io rispondo «Non ancora, ma lo scriverò». Il signor Beniamenta viene verso di me, cioè fino allo sportello davanti a cui sto, e mi spinge sotto il naso il gigantesco pugno chiuso. «Sii puntuale, ragazzo, oppure lo sai già che cosa ti si prepara». Io lo capisco, faccio un altro inchino e sparisco. È strano quanto piacere trovo a provocare gli scoppi di ira delle persone violente. Mi struggo davvero dalla voglia di farmi castigare da questo signor Beniamenta? Albergo forse istinti frivoli? Tutto è possibile, tutto, anche la più abietta indegnità. Su via, presto mi deciderò a scrivere il mio curriculum. Trovo il signor Beniamenta decisamente bello. Una magnifica barba bruna. Che magnifica barba bruna? Sono un idiota. No, nel signor direttore non c'è niente di bello, niente di magnifico, ma si sente che quell'uomo ha dietro di sé lunghe vicissitudini, gravi colpi del destino, ed è questo elemento umano, questo elemento quasi divino a farlo bello. I veri uomini, gli esseri autentici, non sono mai belli. Un uomo che porti una barba veramente bella o è un cantante d'opera o un capo reparto ben pagato di qualche grande magazzino. Sono i finti uomini, di regola, a essere belli. Possono però anche darsi eccezioni. Possono esservi bellezze virili, piene di gagliardia. Il viso e la mano, che ho già imparato a conoscere, del signor Beniamenta hanno qualcosa di simile a radici nodose, a radici che chissà in quale triste momento hanno dovuto resistere a chissà quali impietosi colpi di accetta. Se fossi una dama di nobili spiriti, saprei senza dubbio trattare con distinzione uomini come questo direttore d'istituto dall'apparenza tanto dimessa, ma a quanto credo di capire, il signor Beniamenta non ha nessuna dimestichezza con la società che conta nel mondo. Rimane sempre chiuso in casa. Si tiene indubbiamente come in un nascondiglio. Si appiatta in solitudine. E in realtà, orrendamente solitaria deve essere l'esistenza di quest'uomo sicuramente probo e capace. Oscuri avvenimenti devono aver esercitato sul suo carattere un'impressione profonda, forse addirittura incancellabile. Ma che cosa si può sapere? Un allievo dell'Istituto Beniamenta? Cosa può sapere un tale essere? Eppure io, almeno, continuo a cercare. E per questa ricerca, e non per altro motivo, entro sovente nell'ufficio e faccio a quell'uomo domande insulse come: «Posso uscire, signor direttore?» «Sì, quest'uomo mi ha incantato. Mi interessa». Così pure un vivissimo interesse desta in me la maestra. E proprio per questo, per decifrare qualcosa di tutti questi misteri, lo provoco, cercando di strappargli qualche rilievo imprudente. Che danno ne ho se lui mi picchia? Il mio desiderio di esperienze cresce fino a diventare una passione imperiosa e il dolore che mi cagiona il corruccio di questo strano uomo è poca cosa in confronto alla smania palpitante di muoverlo ad aprirsi un po' con me. Davvero non ho altro sogno, stupendo, stupendo, che di possedere la sgorgante confidenza di quella persona. Certo dovrò ancora aspettare a lungo, ma credo fermamente che riuscirò infine a penetrare il segreto dei Beniamenta. Dai segreti emana il presentimento di un fascino insostenibile, un profumo di qualcosa di tanto bello da non potersi dire. Chissà, chissà. Oh! Mi è caro il frastuono e il movimento incessante della metropoli. Ciò che perpetuamente scorre costringe a una moralità. Per esempio, il ladro, allorché vede tutta questa gente in moto, deve involontariamente rendersi conto di essere un gran bricone. E questa vista lieta e vivace può gettare un seme di ravvedimento nel suo animo, in rovina e in sfacelo. Lo spaccone può diventare un po' più modesto e pensoso nello scorgere tutte le energie creatrici che si manifestano, e può darsi che lo screanzato, nel constatare la rendevolezza dei più, riconosca di essere proprio un verme ripugnante a impancarsi, così come fa, nella sua sciocca presunzione e vana arroganza. La città ci educa, ci forma, e non già con aride massime prese dai libri, ma con gli esempi. Non vi è niente di professorale in essa e questo ci sprona, mentre la gravità del sapere ammucchiato è scoraggiante. E vi sono poi tante altre cose che incitano, che sostengono, che aiutano, tante che si fa fatica a dirle. Com'è difficile esprimere con vivacità quello che è nobile e bello. Qui si è già riconoscenti di una vita modesta. Si ringrazia sempre un poco, mentre si è spinti, mentre si affretta. Chi ha tempo da sprecare non sa ciò che esso significa. È un ingrato scemo, allo stato grezzo. Nella grande città, qualunque galoppino sente che il tempo ha un certo valore, qualunque strillone ci tiene a non sciuparlo. E poi tutte queste visioni di sogno, pittoresche, poetiche. Sempre la gente si affretta e vi fa l'effetto di volervi sorpassare. Ebbene, questo deve significare qualche cosa, questo stimola e imprime alla mente uno slancio vivace. Mentre te ne stai lì, esitando, già centinaia di persone, già centinaia di cose ti sono passate davanti alla testa e agli occhi, e così hai la chiara dimostrazione di quanto sei trascurato, pigro, posa piano. Qui la fretta è un sentimento generale, perché è un'opinione di ogni momento che sia bello acciuffare e conquistare qualcosa con la forza. Ne viene alla vita un respiro più eccitante. Ferite e sofferenze acquistano intensità. La gioia giubila più gaia e più durevole che altrove, perché quelli che qui godono paiono sempre aver conquistato aspramente e vigorosamente quel diritto col lavoro e con la fatica. Poi ci sono di nuovo i giardini, così calmi, così sperduti dietro le cancellate eleganti, come angoli segreti in parchi all'inglese. Vicinissimo a essi tuona e rumoreggia il traffico dei commerci, come se mai al mondo fossero esistiti paesaggi né sogni. I treni rombano sopra i ponti che si scuotono. La sera è piena dello scintillio delle vetrine favolosamente ricche ed eleganti, e fiumi, serpenti marosi di uomini si rovesciano davanti alla seducente esposizione di quella ricchezza industriale. Sì, tutto questo mi appare buono, grande. È un guadagno trovarsi nel bel mezzo di quel turbinio, di quel gorgoglio. Si ha una sensazione sana nelle gambe, nelle braccia e nel petto mentre si compie lo sforzo di destreggiarsi con abilità e senza troppe cerimonie fra tutta quella vita formicolante. La mattina sembra che ogni cosa riviva e la sera tutto ricade in preda all'abbraccio selvaggio di una nuova, insaputa fantasia. È molto poetico. La signorina Beniamenta mi farebbe una bella romanzina se leggesse quello che sto scrivendo. Per non parlare di Kraus, che non fa una distinzione così appassionata fra campagna e città. A Kraus interessano prima di tutto gli uomini, in secondo luogo i doveri e in terzo luogo, tutt'al più, i risparmi che metterà da parte, come si propone di fare, per mandarli a sua madre. Kraus scrive sempre a casa. La sua mentalità è altrettanto semplice quanto puramente umana. Il via vai della grande città, con tutto il suo pazzo luccichio di promesse, lo lascia assolutamente freddo. Che anima prova, delicata, salda.